provo se si adatta, dai. Prova a parlare, Gian, no, un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ok, vediamo un po' come diavolo si fa la passare. Vabbè, io sto fatto adesso. Ho stoppato, però non mi ricordo più come si manda ora, porca miseria. Oh boh, andiamo bene. È nuovo, è caso. Aspetta, perché se premo poi mi toglie il tasto. E finché ci riuscirà a buttarmi la giusta antenna. Ora le cambio la batteria, vediamo un po' se è questo. Una ricezione qua, che cacchio c'ha sta cosa? Eccolo. Allora, non ho ricezione, purtroppo non ho ricezione perché non ho da sparito il segnale. Scusate, non so se sto sovramodulando, mi sto ascoltando con l'altro apparecchio. Porca miseria, non ho ricezione perché non c'è il filo della ricezione collegato. Adesso vi attacco il 3009 così sento la risposta, dai. Ma perché me ne va via quando te la devo far ascoltare? Non lo capisco. Che pazienza che ci vuole. E quindi 25, premo qua, non si c'è un tubo. Boh. Oh, scusate, ho fatto un casino. Non sei solo. Non ti ricordi la prassi, Gianfra? No, non mi ricordo la prassi con la funzione automatica, cioè con sull'apparato, perché non posso usare l'altra che è col computer, che è tutta digitale, cioè questa è digitale, però l'altra è più espansa, più grande, eccetera, eccetera. Solo che mette per lui a tutto e quindi sto aspettando il corriere che venga a ritirarsi tutto e a riferirlo con la sostituzione. Il temporale mi ha fatto un danno che neanche ti immagini, ma mi ha fatto fuori il PC, acqua io. Ma da poco? No, non ho fatto fuori due. No, adesso anche questo. No, ma l'acqua si è acceso, ma da poco, a quanti ieri, quel temporale? Ah, eccolo qua. Temporale malefico, mi ha fatto un casino, mi ha distrutto un hard disk, poi mi ha distrutto tutto il sistema di citofoni fino al cancello, quindi siamo anche senza campanello, e chi ne ha più ne metta, è partito anche il fatto della videosorveglianza, insomma un bel po', c'erano i fulmini uno dietro l'altro, sembrava che in cielo ci fosse una candela d'automobile. E io come sento già un tuono in lontananza, stacco tutto, antenna, strappola, stacco la presa dalla SPISP, comincio a spegnere ciabatte, il computer proprio lo isolo, stacco il modem, il cavo di rete, non sia che passi dal modem telefonico, stacco l'alimentatore, tutto, lo isolo proprio. Allora, Gianni c'è ancora? Ehi, stavo aggiustando il microfono, adesso va bene. E anche forte. Allora, io, quando mi dite di fare la prova, io devo staccare l'antenna e metterla nell'altro. Però dovete lasciare bianco, perché non vi posso ascoltare, non ho il filettino della ricezione saldato su quel Midland, capito già? Ehi. E quindi se voi lasciate un minuto di bianco, o anche due, io stacco, vi faccio sentire quello e rimetto questo. Va bene. Sai cos'era Gianfranco? Qualcosa? Era il PTT che aveva qualche po' di polverina, ne ho messo un goccio di CRC e alla grande adesso. Ah, ok. Va bene, aspettiamo Marco che ha detto di fare un po' di bianco perché non si sente, si spegne di nuovo questo mondo. Ma cosa sta succedendo? Vado, commuto, vado, fra 10 secondi chiamo, eh? Vai! Hola, spero di non aver sbagliato, ecco, di non aver sbagliato Mike. questo è il Midland 150, in teoria dovrebbe uscire un po' più basso di toni col mic originale, e vediamo se questa statica gli corregge un po' la tonalità. 1, 2, 3, prova, distanza sempre 10 cm dal mic, perché se mi avvicino la fa veramente brutta, tipo così sono attaccato al mic, 10 cm dal mic, 30 cm dal mic, l'amplificazione a 9, ma la batteria penso che sia comunque scarica. Adesso datemi tempo di rimettere la ricezione cambiando apparato, ciao. Riecchiami. Marco, è inutile, sempre metallica, ma è una prerogativa delle capsule, di quelle capsule lì, capito? Con le ceramiche, anche quella delle tamere, eccetera, eccetera, sono tutte metalliche. Io ho appurato anche che con Real Devil era la stessa cosa. Sì, è vero, è vero. Rod Devil, guarda, per usare Rod Devil devi avere un vocione, ma di quelli bassissimi, tipo Radio Killer, quello del film Radio Killer, il camionista mi. Ma quello simpatico, l'ha mai visto, non so se tu ce l'hai, su Facebook c'è uno che modula, che è un po' robusto, ma sta sempre ridendo, un po' simpatico. No, Facebook no, vado retro, satana. No, io non uso social network, no. Non mi piace condividere troppe cose, eccetera. Va bene, pensa, non avevo la ricezione, lo mettevo, non sentivo nulla, detto, come mai? Strano, perché avrei dovuto saldare, forse ho saldato solo i tre fili, ho saldato la massa, sì, ho saldato la massa, il PTT e il microfono, ma non il cavettino della ricezione, K. Ma dove? Nell'apparecchio o nel microfono? No, nello spinotto del microfono. È una curiosità, il Cobra tuo, se togli il mic, continui a ricevere? Sì. Allora nessun problema, è già pronto all'uso. Però ci vuole una batteria carica, cioè compra o Duracell o Energizer, perché lì cambiare è una seccatura. Sempre che lo debba tenere, io adesso piuttosto ho perso una vite, cioè io l'ho svitato qua, ho messo le viti, una, due, tre, quattro, una vite è scomparsa dalla vista. Deve essere opera del demonio. Vai Gianfra. Probabile. Che strano. È normale? No, non è normale. Aspetta, via. Vediamo un po'. Ecco qua. Le stazionarie sono bassissime, nonostante stia prendendo colpi. È veramente un'ottima antenna la mia, è trapassata ma se fosse una lavatrice, però mantiene sempre un ottimo livello di stazionario, non lo fa, perlomeno per adesso non sta facendo tipo, questo siamo il prossimo temporale. Qua sono, si muove appena dall'uno lo stesso, e sono antenne che sono perfette con le stazionarie, anche i canali alti ti danno sempre poco. Massimo 1,1, 1,2, dai. Sì, bassissimo, veramente basso. Poi sono range molto alto. Non mi ricordo più di niente da questa presa. Mamma mia, che carino. Questa è una cosa. Devo collegare il computer d'emergenza alla radio. Non mi trovo. Sì, diciamo che io ho avuto un po' di paura con quelle folate di vento che c'erano avanti di notte, ui, roba di vento, ma vento però, non faceva aprire la finestra e ti arrivava tutta l'acqua in faccia, proprio vento, era una tempesta. Sì, perché tu non hai visto quello che è successo qua, ma anche stamane quell'acqua che ha fatto mi ha portato via un altro pezzo di strada, quindi tra poco mi dovrò comprare un carro armato per venire a casa. Sì, come ti stavo dicendo, comunque nella zona di campagna è più facile che scendano i fulmini, perché gli alberi attirano. quando sono bagnati gli alberi attirano i fulmini, è poco di fa. E io ho un amico che gli ha tagliato l'albero in due, ho un ulivo che era secolare, gli ha tagliato in due, fatti un conto, bruciato il motore del pozzo, computer, tutto caso. Sì, sono cose che scappano, ovviamente. Certo che quello di ieri mi ha fatto di cose di crude. Sembrava che stessimo quando a casa, c'era tutti quei fulmini a breve distanza dal suono, e poi boh, no, bombe. Sì, già li ho sentiti, sì, già ero a casa io. E stamattina ho dovuto aspettare a portare il cane perché stava piovendo a cattivezza, ma quella è durato poco stamattina, ma l'altra notte, infatti. Ci dovremmo abituare anche a queste cose, sono cose quasi tropicali oramai, e quindi dobbiamo abituarci, perché oramai il clima è cambiato, questo è successo fuori, con le balene, poi gli elefanti, oramai a quelli ne conviene rinunciarci perché andranno in estinzione, un disastro. Sì, oh yeah. Andare, e vabbè, comunque, si continua ad andare avanti. Allora non possiamo fare, lo so. Se si va a campare, come fanno tutti, fate quello che E poi come sta andando l'attrezzino in macchina, Gianni? Bene, già fa bene, no, non posso dire nulla, te l'ho detto che ho messo lo spinotto nuovo per quel carretto che era un po' rovinato e l'ho cambiato, ma male ce l'avevo di un mila, gli ho cambiato solo lo spinotto e va alla grande, no va bene, sto aspettando che mi arrivi la base magnetica nuova, però stanno aspettando che loro stanno aspettando dalla fabbrica che gli arrivino i gommini per le basi magnetiche, perché ce le hanno, ma sono 7 gommini, capito? Stanno aspettando che gli mandino i gommini per mandarla a Cusaro, sto aspettando quella lì e dopo metto un'antenna performante, sarà lunga 2 metri ma non me ne ha fottuto, almeno mi sento tutti. Ah, con quell'antenna dovresti buccare la capotta. Una bella, direttamente, come si chiama? Va, adesso non mi viene, con quelle punte grosse, anzi direttamente, cos'era, la presa, che fa il buco tondo, da 5-6 centimetri, un bel buco di quella, e ti rimane anche un pezzo di carrozzeria. No, io voglio fare tutta una cosa a volante, non mi interessa averla fissa. Io quando mi serve l'antenna metto la base magnetica e quando non mi serve più la tolgo, così almeno non c'ho niente di fisso. Poi quella affare lì l'avevo fatto nella Station Vego, quella lì l'avevo messa al centro cappotta, la Turbo 2001, anzi mi sentivo a Porto Torres da tutte le parti, tornavo dal lavoro e arrivavo forte. Avevamo anche 747, era la grande, con l'antenna lì facevo DX, con la Turchia addirittura ho parlato, la sosia di Bidria si è parlato con la Turchia. Sì, vabbè, quando c'è preparazione non conta, per capita di tutto, io mi ricordo con un antennino piccolo da una valle bassa addirittura, mi rispondeva Napoli, e non credevo a mio. Infatti mi hanno dato la QSL perché era una zona in cui c'è fatto anche militare, quindi all'epoca facevano. Poi sto cercando un atleta mentre la prima guarda lo mettono in natura. Meno male la VIX si è salvata. Poi mi devo comprare una bomboletta d'aria, perché quando faccio questi lavori, vedi, adesso l'ho soffiata, l'ho soffiato a bocca, però magari ti va in faccia, in giù, una bomboletta d'aria per soffiare prima di mettere CRC. Ti compri un compressorino portatile per prima, che quella non è che ti viene fatto. Sì, già fra, il compressorino portatile dove me lo metti in casa, no? Cioè non è una cosa idonea, dai, per tenere in casa non va bene. Porca miseria. Che è successo, Max? No, una cosa di cui non mi ero accorto invece. E lo stanno facendo tutti i microfoni di nuova generazione, tutti i cavi spiralati di nuova generazione. Allora, la guaina, se voi vi ricordate i vecchi apparati, avevano la guaina spiralata, tipo il 3009, no? Lucida, di quel nero lucido. Adesso stanno facendo in tutti i microfoni queste guaine opache, di un nero opaco, un po' ruvidino leggermente, no? E si sta crepando alla base della static, all'attacco proprio dove c'è rinforzo. L'ha fatto l'Intec, l'ha fatto il Polmar, lo sta facendo la static, che mi chiedo se sia originale pure, se non sia pure una cinocoppia. Insomma, stanno facendo tutto fatto apposta per rompersi, anche per i baracchini. E così devi stare a cambiare mic, eccetera. Anche i nuovissimi apparecchi hanno tutti lo stesso tipo di gomma, che prima o poi si fessura e si rompe. Che schifo. E anche quell'apparecchio, quello di Gianfranco, era così. Gli ho messo il nastro dove si stava rompendo, poi ho tirato e si è rotto dall'altra parte. L'ho messo anche lì, si è rotto dall'altra parte, alla fine gliel'ho cambiato, perché era marcio, capito? E dove gli si è rotto, dove si è rotto il filo? No, o meglio, mi sono spiegato male, la guaina, solo la guaina si è rotta. Alla base, dove c'è rinforzo che entra nel mic poi. Cioè, ci hanno fatto questa guaina di schifo, di questa gommina Simmons che si rompe, fatta apposta per rompersi, e poi non si rompe proprio dove c'è lo spiralato, si rompe di solito o all'attacco col mic, no, dove c'è lo spinotto del microfono, oppure alla base del microfono. Poi si sta scollando anche l'etichetta static, manco quello me ne ero accorto. Poi non so se ti conviene, comunque, tanto meno. Io non ne uso di questo comunque. Ma me lo metto a posto, ce l'ho io il cavo spiralato, non c'è problema. C'ho quello, sai benissimo che ho avuto tantissimi microfoni di M1000, qualcuno l'ho demolito perché non andava più bene e il cavo quello molto elastico mi è rimasto, e quello il cavo c'era buono. Marco, guarda che, anzi dimmi una cosa, confermi che è quello scuro, cioè che ormai è molto morbido lo spiralizzato, e non è lucido, ma è un po' morbidino, strano, anche piace come toccarlo. E sembra quasi, non dico vellutato, sì, molto morbido, di sezione la guaina molto più sottile, cioè se tu vedi la guaina del cavo del 3009, è questa, questo è proprio tipo giocattolo, me. Tipo i, come i portatilini che stanno facendo adesso, non portatilini, i veicolarini di adesso, tutti quelli moderni, quelli piccoli soprattutto, me. Sì, purtroppo. Ecco perché io mi volevo accaparrare un po' di Lafayette DMC507, almeno due, per usarli per usi futuri. No, secondo me sta succedendo un'altra cosa, secondo me questi stanno finendo la gomma vera, quella seria, e stanno mettendo qualche cosa di sostitutivo che però non funziona. Te lo dico perché è capitato a me, sui microfoni professionali. Ho dovuto chiamare il coso dopo che era successo, perché li avevo comprati da lui, lì, il venditore, ma scusate, non li uso quasi questi microfoni, erano in macchina, sono andato a prenderlo e sono rimasto col filo, perché la plastica si è, non è che si rompe nel senso che è tagliata per usura, si sbriciola praticamente, nei capezzi, come se fosse marcia, è proprio una plastica marcia. I contatti ci rimangono tutti, al filo non fa niente, eccetera, però il filo rimane nudo, è uno schifo. Anche se il microfono funziona, ti tocca tutto incerottarlo con del tasto nero, è una cosa allucinante. Tra l'altro su questi non puoi mettere neanche una guaina di quelle termosaltanti, perché sono il filo non esce, capito? E quindi si è fregato, anche lo spinotto, uno spinotto preso fuso sul cavo, quindi un disastro veramente, lo potete cambiare, fare via tutto il microfono. E questo sui microfoni nuovi, non sto parlando di microfono da un anno, due anni, ma su quello nuovo. Sta capitando a tutti gli apparati, è una cosa impossibile per me. A me non è mai successo, l'unica volta che l'ho visto è quell'apparato che mi ha dato tu, che era tutto così, come lo tiravi era tutto svenato, tutto a pezzi di varano. Ma non mi è mai capitato, adesso io ne ho un altro po' di cavi, basta che me lo cavi e via. Ma è preso fuso dove c'è l'attacco dove si aspetta. Tutti questi, anche quelli VHF, UHF eccetera, non sono sostituibili, capisco, perché stiamo facendo preso fuso. Quindi è un casino, anche quelli che hanno il plug, dunque che sbucci quel filetto lì, che morbido, senti, è un bagno di sangue mettere dentro l'RG45, è ancora peggio poi sostituirlo all'interno, perché spesso sono cavi fuori standard. Il mio ad esempio io credo che ci abbia addirittura 10 conduttori dentro, non si trova, e anche se si trovano, si trovano i signori perché sono spiccati. Guarda, è un disastro, si è presente che quel microfono lì che hanno fatto con lo scherzo, che l'ho recuperato incerottandoli, costa 90 euro, è un microfono da palma, quindi non è che è così poco. Sì, ma io già l'ho fatto, io praticamente dove è preso fuso, dove entra nel microfono, lui l'ho lasciato libero e ci ho messo una fascetta dall'interno per bloccarlo e va benissimo, in questo qua l'ho fatto, in questo che sto parlando. Praticamente questo nasce con un cavo spiralato molto corto e duro e a me non piacciono così, perché se devo tirarlo te ne tiri baracchine. Invece con questo cavo qua che è morbido e lungo, vado alla grande, capito? E l'ho cambiato tutto il cavo, gli ho fatto sia l'attacco dello spinotto nuovo sia il cavo. E va alla grande. Gli ho messo una fascetta all'interno, non si vede nemmeno, per bloccare, perché non potevo mettere quel blocco che ci hanno preso fuso nel coso, quello non c'era, quindi ho dovuto mettere una fascetta. Da me purtroppo non si può fare, perché il connettore dell'apparecchio è tutto in plastica preso fuso ed è speciale, capisco, c'è anche le guarnizioni, nel caso che cada tutto l'apparato in acqua. E quindi non fa proprio, non c'è parte che sia attaccabile, non c'ha viti come quello dei baracchini o come quello anche di certi apparati, insomma non si può fare niente, è un disastro, cioè buttare tutto e ricomprarlo nuovo. Poi sta in garanzia, magari, infatti mi aveva detto perché non me l'ha mandato indietro, ho detto non ci ho pensato, pensavo che non l'ho mandato, no, già li sostituiamo, anche se è una cosa rara, che è strana, perché neanche loro si immaginavano, comunque capita, ti prendi Marco, allora? Sì, io nel frattempo, nel delirio, non solo avevo perso la vite che si era attaccata sotto la suola della scarpa, avevo perso anche lo sportellino della batteria dello ZGM95 e l'ho trovata tra i due cuscini del divano. E siccome ho affondato la mano nella fessura molto in fretta, per poco non mi taglio perché era messo di taglio, no? Quindi tutto trovato, vite e sportellino. E sono troppo distratto io nel fare le cose, poi quando ho fretta faccio un macello. Cava gara. Chiappa. Quindi vabbè. E poi questi amplificati, detto tra noi, io non ne uso amplificati. Non ne uso perché, cioè, vedi, una cosa è avere il mic da tavolo, no? Tu stai, 30-40 centimetri comodamente seduto e ti regoli la modulazione come usciresti col mic palmare davanti alla bocca, cioè non amplificando a manetta, ma avendo il guadagno giusto per uscire normale di radio, ben capibile ma non basso, ecco, tutto lì. E come esce lo ZG, che è un'amplificazione quasi naturale. Sì, l'importante è non alzare, perché se lo metti a 10 sugli apparecchi col trimmer aperto ti fa già sordo, comunque non è da salotto, diciamo. Vai Gianfranco. A proposito, anche io, siccome mi è arrivato stasera il terzo microfono, ne ho tre tutti uguali, un po' monotono, tutti neri, poi quelli 508. Questo è quello nuovo, lo sto usando, è perfettamente identico agli altri, però mi sono dimenticato di regolare proprio l'uscita microfonica. Marco, tu che sei abituato alla mia radio, è sempre la stessa oppure la vorresti un po' aumentata? Ecco. A me era il pesce. Sì, se sei Marco, sì. No, scusate, stavo tentando di mettere a posto, non ho capito il passaggio, dovrei ripetere. No, ho detto, siccome questo è un microfono che è arrivato nel pomeriggio, l'ho dovuto mettere su questa radio, io volevo fare il furbo anche mettendolo su quello piccolo, solo che mi sono dimenticato di un trasclubber del taglio, e questo va alimentato, mettendoci le batterie che ce ne stanno due, non riesce a gestire con la farina così piccolo di attaglio. Mannaggia, quindi ce ne voleva uno veramente di quelli piccini, no? Quando vedi un po' la merda, e trick e track. E ti volevo dire, infatti, dato che non l'ho neanche regolato, se va bene, oppure se sarebbe il caso di darne un pochino più di gas, quindi di amplificazione, perché non l'ho neanche toccato. Io direi un po' più di gas, perché vabbè, ho dovuto alzare il volume, ma mi stanno entrando le radio AM, le BCL, che sento l'audio che supera il tuo, capito? È il problema solito che c'è qua. BCL addirittura, siamo messi bene. Allora io vado e io sto aumentando, vediamo cosa succede. Prova 1, 2, 3, aspetta, lo metto al massimo. Ecco, così al massimo, è successo qualche cosa? Che almeno ti sento, così ti sento. Diciamo in posizione intermedia andava già bene. Così è ancora più capibile. Mi stanno entrando a bomba l'audio delle radio AM. Ma cosa c'è? Propagazione oggi? No, io non sento niente, onestamente. Tu, Gianni, senti qualcosa? No, io no. No, ma non è qua. Proprio mi rientra probabilmente il cavo lungo, risuona il cavo lungo, 50 metri, e mi entrano proprio nell'audio, cioè il canale è libero. Ma mentre parla qualcuno sento... Non lo so, tutte le lingue sento. Cosa hai combinato? Magari c'è un pochettino di massa che sta andando. Con lo 213 a me era capitato che poi andavo alla fine, no? E non c'avevo più segnale, capito, ma che strano. Allora quando l'avevo tolto l'avevo aperto e non c'era più calza, tutta mangiata. All'anima. Ma dopo quanti anni? E quanto ci sarà l'antenna qua? Dal 2016 forse? Questa 5 ottavi, 4 anni penso. Devo controllare. Per te Gianni, tu che ti lamenti sempre che è troppo bassa, come la vedi? Che altro la sento, già la sento bene. Quindi non è bassa. Vediamo un po' come va. Figurati, c'è anche il coso là. C'è questo maledetto problema del coso qui, come si chiama, dell'LC su questi piatti. Niente. non ho migliorato un tubo. Come ho detto. Sì, comunque se lo lasci come l'hai regolato un po' alto è meglio, tanto sono tutti amplificati. Magari la tramodulazione è tutta gente amplificata, quindi migliora. Vabbè, sì, mi servirebbero dei microfoni di ricambio, porca miseria, tipo la Fayette DMC507 che è una capsula bella ampia, bella aperta. Mamma mia, però a comprare, vabbè, non conviene comprarne uno, conviene comprarne almeno due per ammortizzare la spedizione. Da dove li prendi? Da internet naturalmente, però c'è un venditore che io non conoscevo, che non conosco, non ci ho mai preso niente, tipo si chiama Shalla Store, penso sia dal sud Italia, già il nome Shalla sarà il cognome, e c'ha varie cose, però vabbè, c'è roba da poco, tipo 20 euro di microfoni per la spedizione, male che vada a 30 euro perdono, sei una truffa, ma... Infatti controlla, non si sa mai. Io scegli sempre quelli che hanno tante recensioni favorevoli. No, è un negozio online questo, non ha a che fare né con eBay né con Amazon. Allora rischio c'è, Gianni, comunque vi sia stati, che se tu vedi la foto non so se l'hai già aperta, c'è dentro, è vuoto, c'è sta capsula ceramica, due componenti messi in croce, due resistenze, un condensatore, due condensatori, uno di quelli a lenticchia come si chiama, no vabbè, c'è anche qualcos'altro nascosto dai cavi, però all'anima, i componenti ci saranno 5 euro di roba, forse 10, buce tutto, ma... Ehi, ho notato che nell'angolo sembra che sia bruciato dove attacca la vite, che cosa gli è fatto? Fa rimagnurato. Allora, lì l'ho dovuto leggermente limare, perché se stringevi bene il microfono con le viti, bene, che poi io non stringo mai troppo, con le viti, come premevi il mic faceva stack, cioè uno scatto particolare, cioè anche fatti anche meccanicamente così, no? Premevi e sentiva tac, tac, e non si è risolto. Invece quella colla che vedi sulla sedia della vite, l'avevo messa appena appena per tenere un po' meglio, tanto la batteria la cambia ogni 2 anni, dipende quanto lo usi. E comunque un acquisto, cioè 50 euro o poco più dall'America, però non... molto molto meglio l'M93 o il DM1000 da 30 euro, microfoni da 25-30 euro, molto molto meglio, anche come timbrica io preferisco molto di più l'M93 a questo Static, e gli americani sono andati a dire che in qualche forum che gli ZG notoriamente uscivano malissimo, poverini. Ogni tanto oscilla. Marco, faccio un esperimento. Dimmi se cambia. Sto cambiando i bassi, quella... No, non sto cambiando la massa. Trasmissione non funziona. Cioè, senza trasmissione, ma non quando parlo. Porca miseria. No, forse funziona. Vediamo un po'. Marco, guarda che è successo adesso, prova uno, che dovrebbe essere i bassi, prova due, adesso tutti gli alti o viceversa. È successo qualcosa come radio? Così ai più bassi, era viceversa, prima sembrava un po' più alto e secondo passaggio più bassi, cioè come adesso. Qual è preferibile? Lasciarla a zero? Vediamo un po'. Adesso a zero, cioè al centro. Adesso è meno. Ecco, adesso è tutto meno. Com'è preferibile secondo te? Adesso l'ho rimessa a zero. Allora, siccome questo apparecchio riceve un po' più acuto, ho a 0 toni bassi, poi quello sta all'orecchio di chi ascolta, però per non sbagliare metterli a 0. Non era male con i bassi però, per la tua voce con un po' più di bassi non era male. E Gianni c'è ancora? Gianni, esci fuori. Marco, proprio i tre. Vediamo cosa succede. Adesso è il centrale, quindi 0, adesso è meno 5. Adesso da meno 5 salgo a più 5. Adesso è più 5. Succede qualcosa? Sì. È più alto il tono. Stavo rispondendo al telefono, c'è qualcuno che chiama, avanti, che sta chiamando, avanti. Sono francesi, li senti? Ah, passiamo un amico che tutti lì della Sardegna che ti fa telli, sì, è la stazione del Tagoneo della Ville de Sassari. Avanti l'amico Pulesciot. Cicu cicu, non sono io quello che stava chiamando però, Catramina qua, buonasera a tutti. Ehi, Catramone, come va? Come va? Rientrando dal sud, ho ritirato il cavallo che ce l'avevo ricoverato tutta la settimana. Appa, e dove ce l'avevi ricoverato? A Oristano, Gianni. Allora, e cos'era? Molto, cosa c'aveva? Ultimamente un po' di mal di pancia, molto mal di pancia. Sì, ho un sacco di lavoretti, cambiato pezzi e via dicendo, valvole, valvoline, sensori, contrasensori, insomma, una massa di là. Come mai proprio l'Istano non le fa più in zona, più bravi sono lì? Cappa Rogero, qua non ci sono i dottori giusti, mi hanno fottito solo di Naibu tempo fa. Ah, ecco, dai, sono in compagnia di Marco Condore e di Gianfranco, avanti per chi vuoi. Beh, Gianfranco, riprendete. Signori, vi ho perso che ero in galleria, gappa, quindi non ho sentito niente. Non ho parlato, dai, Gianfranco e Marco si sono eclissati. No, io stavo facendo un esperimento che ha avuto successo. Io pure. Stavo tentando di rimettere a posto, ma qua è un caos totale. Ciao l'amico che è entrato, buona serata. Aia, buona, dai. Vi lascio, riprendete le vostre faccende. Ciao Catramina, dai, ben sentito e buone cose, dai. Buona serata anche a te e buon rientro. Ciao Gianni, buona serata a te e uno. Alle prossimine, capo. Provi, guarda se riesci a vendermi l'apparato, un Alan 48 modificato con un doppio modulatore eccetera eccetera, che lo sto vendendo. Già, avevo già chiesto a qualcheduno sembrava anche mezzo intasciato. Ricordami il prezzo già. 3,50. Quanto già? Premi bene prima. Ho detto 3,50, c'ha anche le manopole illuminate, la bandiera americana, avanti, insomma è di lusso, va bene. Gaffa Rogero Gianni, dai, Gaffa Rogero, io ci riprovo. Di nuovo salutoni a tutti. Ciao, ci sentiamo Catrani, sì, mi fa sapere. Avanti Gianfranco. Sì, sto facendo delle misurazioni tecniche. Da paura. C'erano, vabbè, detto in parole povere, almeno 3-4 canali in alto, 3 più 3 sono 6 canali, quindi sono circa 30k di escursione quasi su quella modulazione e con la barra mobile, il che significa pazzesco, guarda, pazzesco. A voi non vi sento praticamente, quindi se questo vi può consolare, voi andate bene come spettro. Ehi, ecco qua. E quindi, porca miseria, devo controllare questo Intec, che cavolo di capsula, se con esattore fosse dinamica, quello che si è tutto disintegrato, ma tu devi vedere come si è ridotto, è iniziato in un punto e poi pochi giorni dopo era tutto in briciole la guaina di questo Intec 150 Plus. Poi è cominciato il Polmar, ce li ho da anni un po', da anni, ha iniziato il Polmar e così farà lo stesso Presidente, tutti gli altri, anche questi HR5005, cioè hanno la stessa guaina microfonica di questi che si sono rotti. È un peccato perché quello c'ha il tasto up down, l'autosquelce no, nel microfono, è molto comodo, vabbè. Ma quanto costerà uno di quei microfoni da tavolo, sempre? Qual è il settaggio, quella cosa lì? Ma tu parli dell'MB più 5? E quanto può costare? In loco, oddio, già, si è aggiornato sui prezzi. E sulle 70 euro costa, Gianfra, sulle 70 euro. Se lo compri mi fa qualche cosa in meno, perché mi conosce. No, no, ma io non prendo roba qua, prendo sempre da fuori, tutto, lo dico veramente da fuori. C'ho più garanzie e tutto, capito? Questo che è arrivato non ricordo neanche dopo l'ho preso, da un venditore che era l'unico che ce l'aveva, ne aveva due o tre. Ma vabbè. Sentite questi sotto? Ma c'è qualcuno che fischia nel tuo QTH? Questo spagnolo. No, non è che fischia, è il vento, nonostante ciò, i doppi vetri, le finestre pressurizzate quasi, eccetera, ma è talmente forte che riesce a passare aria compressa, c'è il fuori. Se vede la mia antenna, te l'ho detto, fa anche ridere, dice, come fa a reggere, non ho capito, boh. Comunque sta reggendo, c'è un vento forte tutto lì, e non è neanche tra i più forti che ho visto qua, però insomma, fischia quando è lì. Io sento qualcosa molto basso, ma non decifrabile, no, non qua. Vabbè, propagazione bella, no, credo che sia finita ormai. Quei giorni proprio di propagazione selvaggia, mi fa segnali, fanno scala. Questo era spagnolo. Dunque, vediamo il prezzo di Media Globe per l'MB più 5. Media Globe vedo che fa prezzacci per tutte le, quasi tutti i prodotti da Media Globe costano meno, amatoriale e non. MB più 5, 62,99 euro, 63 però conta che 8-9 euro di spedizione, siamo lì, però sai almeno che non è già usato, rimesso in vendita, con le saldature del microfono fatte, con la capsula mancante, e gli è capitato anche quello, sentite? Beh, anche di questi ne stavamo prendendo uno, 30 euro, oh, ho letto bene, senza capsula, ma tutti scemi siete, cioè vai a prendere un microfono senza capsula, e dove la trovi una capsula con certe caratteristiche? E sta bene che ti butta l'albero, mi sta mettendo di buona volontà. Capito, quindi è un bisogna stare un po' attenti, ecco, ma sono venditori singoli, non certo un negozio, perché Media Globe, anche se usato, è molto serio. Figurati che mi ha anche valutato bene un rockmaster che ho dato. Qua qualcuno ha detto non funziona, eccetera, loro li mettono, li collaudano prima, no? con gli strumenti seri. L'hanno venduto più caro del mio CN801 che non è certo economico della Dyson, capito? Quindi, e poi ti danno un anno di garanzia sull'usato. Oh, un attimino, dai, io devo uscire, dai, vi saluto, ci sentiamo, buona serata a tutti e buon continuo QSO, quel tipo a me. Sì, già, dai, fai tutto quello che devi fare, dai, sentiamo quando capita. Allora sì, vari venditori ce l'hanno già fra. Oh, vuoi per i saluti prima, dai. Sì, ciao Gianni, alle prossime, buona serata e buona passeggiata, anche se c'è molto, molto vento fuori, o per la mano qua è fortissimo. Riprendi Marco. Ciao. Allora, stavo notando i prezzi dei venditori, per esempio, se Media Globe lo vende a 63 euro più spedizione, Am Radio Shop ovviamente 75 euro e un centesimo più la spedizione. Ma poi perché 75 euro e un centesimo? Ci fai 75 euro.00? Molti dicono perché non glielo prende, evidentemente dipende da cosa usano come programma per metterlo sul sito, perché non tutti i siti, ci sono dei siti che fanno cagare veramente, fatti malissimo. Comunque, sì, Am Shop, quello lì è abbastanza caro. Tutto dice roba buona, ma anche molto molto caro. Poi vabbè, Media Globe, se, no Media Globe, Magic Phone, quello di Lucca, 65 euro. E comunque è salito il prezzo, perché io quando l'ho preso parecchi anni fa, quando sono rientrato, no, tipo 10 anni fa, o poco dopo, dai, fai che siano 8 anni. Ma io non avevo pagato mica 70 euro, l'avevo pagato una sessantina, forse anche meno. E stanno aumentando tutto, tutto, tutto. Ho visto anche prezzi spropositati tipo per l'MC60, ma non costavano così 10 anni fa. Perché sai, i commercianti italiani è gente strana, se vende poco tende a aumentare, però più aumenti ovviamente è meno vendi, quindi è un po' un cane si morde la coda, perché io già non te lo compro al prezzo che c'hai, se tu lo aumenti pure di semplicemente che non lo vuoi vendere. Infatti a qualcuno che ha fatto osservazione e ha detto, no, ma scusi, ma sto scherzando, ma guardi che dall'altro lo posso comprare fuori. Come facciamo a fare una sassa, no, quando dici che lo compri fuori? Ti dico, ma non so, c'è la fregatura, no, guardi, sono dei grossi negozi e danno la garanzia proprio a occhi chiusi, e se c'è qualche problema immediatamente glielo cambiano, non hanno problemi, perché hanno grossi magazzini. No, ma quelli da noi, vieni qua, sì. Poi senti le storie che la gente c'è andata e ha detto no, ma lei l'ha toccato, ma lei l'ha usato male, ma forse l'è caduto. Tutte queste belle cose, no? Già quante volte sarà capitato, Marco, quante ne hai sentite? Sentite, sì. Allora, sono arrivato a FLECO Elettronica, 69 euro l'MBP5, più spedizione, caspita, comincia a costare. Comunque per i toni, cioè gira gira esce meglio l'MBP4, tono fisso però, sembra quasi che la timbrica sia migliore del più 4, e costa pure di meno. Dimmi una cosa, il più 5 è quello con lo strumento, giusto? Sì, sì, quello con lo strumento è inutile perché praticamente se non ci urli sopra non sale, non vedi picchi notevoli, almeno in questa versione che ho io non li vedi picchi parlando normalmente, devi fischiare proprio attaccato alla capsula per vedere salire, con batteria carica e ti dico, cioè, lo strumento è inutile, tanto vale prendere un MB più 4, più pulito, più tutto, e il tono va bene così. Sì, decisamente. Poi quello di prima sicuramente c'era un doppio modulatore, no? E mi sono dotato, non ho risposto prima perché stavo facendo la prova di vedere fin dove lo sentivo. Ma è una cosa pazzesca, roba di 3 canali su un lato e 3 canali sull'altro, sono 6 canali in tutto. Cioè, ma come si fa a uscire così? Te lo immagini quante armoniche genera, a parte l'occupazione di banda, un attrezzo del genere, è una macchina, come dire, una macchina fuori controllo. Io per me uscirei anche in FM, io per me modulerei tutti i giorni in FM, anche perché io metto lo squelch anche in AM, non voglio sentire friggitrici sotto. rumore di fondo soffio, un minimo di squelch, bello, sembra di essere in UHF, capito? Dicevo, senti le voci e non senti nulla, silenzio totale. Però in FM non piace a Sassa di stare in FM, ho notato. Non capisco un tubo. Proviamolo un attimino, che questo in FM non l'ho mai provato, anche perché poverino è nuovo. Proviamo. FM. Attenzione 10, c'è qualcuno su 10? Attenzione 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Cavolo, sa, sta cosa.